Hashtag Autotrasporti. News e aggiornamenti dal mondo dell'autotrasporto. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura l'emergenza viabilità in Sicilia. Ora è ufficiale, da lunedì gli autotrasportatori saranno esonerati dal pagamento dei pedaggi autostradali lungo i percorsi alternativi al tratto dell'A19, la Palermo-Catania, interrotta in seguito al cedimento del viadotto Himera. L'esenzione resterà in vigore fino a che non sarà aperta la bretella attraverso la quale sarà possibile aggirare il blocco. Per poterla realizzare in tempi rapidi, il governo nelle scorse settimane ha decretato lo stato di emergenza. L'esenzione dei pedaggi è stata una delle richieste presentate dagli autotrasportatori siciliani al ministro Graziano Del Rio nel corso dell'incontro avvenuto mercoledì a Roma. Si è parlato anche del finanziamento dell'eco bonus per incentivare l'utilizzo delle autostrade del mare e di una deroga ai divieti previsti dal calendario di circolazione. Restiamo sulle autostrade. Appena pochi mesi fa, con lo sblocca Italia, il governo aveva reso possibile il prolungamento delle concessioni autostradali nel caso di un accorpamento di tratte vicine tra loro. Una condizione criticata dall'antitrust e dall'autority dei trasporti, eppure da Bruxelles sono giunti segnali all'insegna delle perplessità. Adesso il governo ci sta ripensando e la norma potrebbe essere congelata. Nel frattempo AISCAT, l'associazione dei concessionari autostradali, ha chiesto al premier Matteo Renzi un ritocco delle tariffe, un'ipotesi che non piace agli automobilisti alla vigilia delle ferie estive, e tra gli autotrasportatori c'è chi è pronto ad alzare le barricate. Cinzia Franchini, presidente di FITA CNA. Siamo alle solite, dove i soliti lobbisti comunque battono casse rispetto al governo, e a pagare sono gli autotrasportatori, merci e persone in conto terzi. Quindi noi sicuramente chiederemo anche a tutti gli utenti della strada, che vanno dagli agenti di commercio ai pendolari, a chi quotidianamente si sposta sulle autostrade, di mobilitarsi per fare in modo che questi aumenti non ci debbano investire. Consideri che una delle voci più importanti, insieme al costo del carburante, ovviamente insieme al costo del personale, per cui non ci possiamo permettere ulteriori aggravi di costi in un momento in cui le imprese italiane non reggono più la concorrenza di paesi, soprattutto dell'est Europa, che si possono permettere costi decisamente più bassi rispetto ai nostri. In Europa continua a crescere la domanda di veicoli commerciali. Ad aprile l'incremento è stato del 12,2% nei primi 4 mesi del 13%. A renderlo noto è ACEA, l'associazione dei costruttori automobilistici europei. L'aumento maggiore nel Regno Unito, dove è stato registrato un più 22,8%. Seguono la Spagna e l'Italia, dove la domanda di veicoli commerciali è cresciuta del 9%. Sull'accesso dei veicoli commerciali all'interno delle zone a traffico limitato delle città e nei centri storici interviene l'antitrust. In una lettera inviata all'ANCI, l'Authority ha precisato che l'accesso a queste aree deve essere consentito a tutti i corrieri espresso, senza discriminazione rispetto agli operatori comunali e a Poste Italiane. L'intervento dell'antitrust fa riferimento a quei comuni che si avvalgono di piattaforme logistiche locali, attraverso le quali sono state stabilite differenziazioni di transito e accesso. Il passaggio delle competenze relative alla tenuta degli albi territoriali dalle province alla motorizzazione è ancora in una fase di transizione. Nelle scorse settimane si è svolto un incontro al Ministero con le associazioni di categoria, al quale è seguita una nuova circolare esplicativa. Maurizio Vitelli, direttore della motorizzazione, ha fatto il punto al microfono di Francesco De Remigis. Hanno ridato le funzioni all'amministrazione senza personale, quindi chi esercita questa attività prima presso le province cessa di esercitarle, però le competenze vanno date all'amministrazione, che quel personale non lo può prendere. Ora ci trovano una competenza senza personale, qualche problema questo lo comporta. Stiamo lavorando cercando di assolvere questa funzione con sistemi informatici, con reingegnerizzando alcune attività e procedure per rendere comunque un servizio efficiente ed efficace. E ora uno sguardo a quello che avviene oltreoceano. All'inizio di maggio in Nevada è stato sperimentato il primo camion a guida automatica, come vi abbiamo raccontato in una puntata precedente di Hashtag Autotrasporti. Ora l'associazione North American Trade Corridor ha avviato una richiesta affinché i mezzi pesanti senza autista, in realtà un autista in cabina c'è ed è pronto ad interagire in caso di necessità, possano transitare lungo il tracciato della Route 83 e quindi risalire dal confine con il Messico fino al Canada. Hashtag Autotrasporti del sabato termina qui. I prossimi appuntamenti lunedì alle 21.45 e mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.